perché Yahweh, l'Altissimo, è tremendo, grande re su tutta la terra. Salmo 83. Siano svergognati i malvagi e pieni di spavento per sempre, siano confusi e periscano. Conoscano che tu solo, il cui nome è Yahweh, sei l'Altissimo su tutta la terra. Dunque, per gli ebrei, l'Altissimo, l'Onnipotente, ha dunque un nome proprio di persona, Yahweh, il tetagramma. Yahweh era dunque la divinità di Israele. Ecco una bellissima testimonianza in merito nel secondo libro delle cronache. Il re Asa si trovava in grande difficoltà, ma noi leggiamo: allora Asa gridò a Yahweh, il suo Dio, e disse: «O Yahweh, non c'è nessuno lì fuori di te che possa venire in aiuto nel combattimento tra uno potente e uno che è privo di forza. Soccorrici, o Yahweh, nostro Dio, perché noi ci appoggiamo su di te e andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome. O Yahweh, tu sei il nostro Dio. Non permettere che l'uomo prevalga su di te». Il re Asa non pregò un vago Dio, ma rivolse la sua preghiera a Yahweh, che era la sua divinità, il suo Dio. È molto importante sottolineare che gli ebrei non credevano in un Dio vago, ma credevano in Yahweh quale loro divinità. In effetti, quando leggiamo nel libro della Genesi che il Creatore crea ogni cosa, compreso l'uomo, la parola di Dio specifica che l'autore è stato Yahweh. Ascoltiamo la lettura con i termini in ebraico. Yahweh, Elohim, formò l'uomo dalla polvere della terra. Yahweh, Elohim, piantò un giardino in Eden a Oriente. Yahweh, Elohim, Dio, fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi. L'espressione Yahweh Elohim, che la Bibbia Diodati traduce con Eterno Dio, non va considerata come una duplice definizione della divinità. Yahweh è Yahweh, l'Elohim è l'Elohim. L'espressione quindi sta a significare che nell'ambito della divinità, e spessa al plurale, l'atto creativo è attribuibile a Yahweh. In effetti, è ciò che leggiamo nel Salmo 196. Ascoltiamo. Riconoscete che Yahweh Elohim è Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli, ma Yahweh ha fatto i cieli. Per comprendere la diversità tra Yahweh e l'Elohim, prendiamo come esempio l'acqua. Essa è composta di due parti, di idrogeno e una di ossigeno. Quando parliamo dell'ossigeno, ci riferiamo specificatamente ad una componente dell'acqua. Usando però il termine acqua, intendiamo l'insieme dei due elementi, cioè di idrogeno e ossigeno. Così, con l'espressione l'Eterno Dio, lo scrittore significa che Yahweh, facendo parte dell'Elohim, ha creato l'uomo e non un El, una divinità vaga o una persona dell'Elohim diversa da Yahweh a compiere l'atto della creazione. Queste riflessioni, cari ascoltatori, non provengono da un pignolo che vuole spaccare un cappello in quattro, ma servono a prepararci ad accettare il messaggio del Vangelo degli Apostoli, secondo il quale chi ha creato ogni cosa è stato Gesù Cristo. Chi legge la Bibbia da anni sa che questa non è una novità, perché, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Cristo, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Eppure, sembra che una simile conclusione lasci alcuni figli di Dio esterrefatti. Questa reazione è data dal fatto che comunemente si pensa che il Creatore sia la prima persona della Trinità, cioè il Padre, mentre il libro della Genesi, come tutto l'Antico Testamento, presenta l'opera di Cristo. È Cristo che ha creato i cieli e la terra, è Cristo che ha creato l'uomo. Perciò, nel tetagramma, se vogliamo comprendere ciò che leggiamo, dobbiamo scorgervi la persona di Cristo e non un nome per definire la Trinità. Sorge però una domanda: chi ha preso l'iniziativa di attribuire al nome Yahweh alla divinità di Israele e dei cristiani? È forse dipeso da una decisione degli scrittori sacri fare tale abbinamento? No. Yahweh è il nome che la divinità di Israele si è dato da sé. Consideriamo, dopo un breve stacco, come si è rivelata la divinità di Israele e dei cristiani. Ascoltiamo ora con attenzione, cari ascoltatori, la lettura nel libro dell'Esodo, al capitolo 3. Ora Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse: «Ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma». Ora l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: «Mosè, Mosè!» Egli rispose: «Eccomi!» Dio disse: «Non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo». Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Poi l'Eterno disse: «Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perizzei, gli Ivvei e i Gebusei. Ed ora, ecco, il grido dei figli di Israele è giunto fino a me, ed ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Ora dunque vieni, e io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto». Ma Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire i figli di Israele dall'Egitto?» Dio disse: «Io sarò con te, e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte». Allora Mosè disse a Dio: «Ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro?» Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono». Poi disse: «Dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai così ai figli di Israele: Yahweh, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in perpetuo. Questo sarà sempre il mio nome col quale sarò ricordato per tutte le generazioni. Va e raduna gli anziani di Israele e di loro: Yahweh, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso dicendo: io vi ho certamente visitato e ho visto quello che vi fanno in Egitto. E ho detto: io vi farò salire dall'oppressione d'Egitto al paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Perizzei, degli Ivei e dei Gebusei, in un paese dove scorre latte e miele. Ed essi ubbidiranno alla tua voce, e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d'Egitto e gli direte: Yahvé, Dio degli Ebrei, ci è venuto incontro, ed ora lasciaci andare per il cammino di 3 giorni nel deserto, perché possiamo sacrificare a Yahvé, Dio nostro. Le circostanze conducono Mosè a incontrare Yahvé, chiamato in questo testo Angelo dell'Eterno. Egli si rivela come la divinità dei suoi padri e manda Mosè a liberare il popolo di Israele. Ma Mosè è incerto, perché non conosce chi lo stia mandando. Mosè è cosciente di essere davanti alla divinità dei suoi padri, ma non ne conosce il nome, cioè la sua specifica peculiarità. Fino a quel momento nessuno aveva mai chiesto il nome dell'Elohim, cioè di Dio. Nessuno si era posto il problema di conoscere l'identità personale di questa divinità. E, per la prima volta, la divinità di Israele rivela il suo nome, cioè la sua personalità. Io sono colui che sono. Gli studiosi affermano che il nome Yahvé viene da un verbo essere e include i 3 tempi di tale verbo, cioè il passato, il presente e il futuro. In ebraico, la lingua dell'Antico Testamento, ci sono 2 tempi verbali: il perfetto, che indica un'azione compiuta, e l'imperfetto, che indica un'azione incompiuta. Pertanto, questo nome significa colui che era, che è e che sarà. In altre parole, eterno. Chi ha una certa dimestichezza delle scritture, per associazione di idee, avrà subito pensato a ciò che l'autore della lettera agli ebrei, e non poteva essere diversamente, ha scritto in merito a Gesù Cristo. Ecco la sua testimonianza. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Di nessun essere umano è stato detto questo, e a nessuno è stato fatto questo accostamento. Questa affermazione è una delle tante testimonianze che troviamo nel Nuovo Testamento in riferimento alla divinità di Gesù. E non solo. Con tale espressione, l'autore della lettera agli ebrei ha testimoniato che Gesù Cristo è stato, è e sarà la divinità degli ebrei e dei cristiani. Ma vi sono altre riflessioni da fare in merito alla presenza di Cristo nell'Antico Testamento, e che faremo ancora nella prossima trasmissione. Che Gesù Cristo vi dia una sempre più nitida rivelazione di sé.